Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche a Flavio Suardi. Ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia e un presidente oggi qui vicino a noi. Devo darti del lei, Marco Buonamico? No, non credo sia necessario. Buongiorno a tutti. Marco Buonamico, neo presidente della Lega 2, oltre che commentatore tecnico della Lega 2 per i microfoni della RAI. Marco, la Lega 2 che sta avendo un successone anche di pubblico, eh? Mi pare. Ma devo dire che stiamo andando alla grande col pubblico, perché nel girone d'andata siamo attorno a 2.400 spettatori per partita. E, insomma, con questi chiari di luna sono numeri che ci teniamo stretti. No, poi è un campionato pazzesco, un equilibrio snervante. Io non so come sia possibile creare una chimica di questo tipo. Tra la prima e l'ultima sono pochi punti, ma poi soprattutto la prima può perdere, spesso perde contro l'ultima. È capitato, ma in effetti credo che non avremo problemi l'anno prossimo per lo sponsor, perché qualche cardiotonico per i nostri tifosi, però i campionati sono belli così, quando sono incerti, tirati. Naturalmente c'è il coach Dan Peterson. Ciao Dan. Ciao, sento anche la voce di Marco Buonamico, se non sbaglio. Proprio lui, il presidente, dobbiamo dargli del lei. Guarda, Marco, complimenti per la presidenza della Lega 2, ok? Grazie, coach. Per il lavoro, ok? Poi ne parliamo. Ci stava dicendo Buonamico che sei stato tu a farlo esordire in Serie A. Io questo non me lo ricordavo. Coach. Sì, assolutamente. Marco aveva 16 anni, proprio stiamo parlando del 57, lui con il 73-74 alla Virtus, lui era in squadra e poi l'anno successivo a 18 anni era già in quintetto base, quindi già su una parabola ascendente, proprio con il razzo dietro, quindi poi è andato nazionale l'anno successivo, quindi non ha perso tanto tempo. Fa giocare i giovani, il coach è bravo, eh? Beh, era super e devo dire che ha avuto molto coraggio, perché non è che sapessi fare molto, però avevo tanta voglia. Ma buon amico aveva, era un grande atleta, aveva l'altezza giusta per il ruolo, forza fisica, cioè proprio velocità, stacco da terra, e poi che mi dicevi tu, Marco, una grande voglia di emergere, grande applicazione mentale, lavoratore, cioè, tutte queste doti che poi anche da imparare, migliorare, studiare, perché ogni anno Marco ha fatto miglioramenti, cioè da giocatore, diciamo, fisico, è diventato un giocatore alla fine della carriera anche tecnico, anche, cioè, ha fatto veramente tutta la parabola. Poi faccia di tolla giusta, come diciamo. Sì. 800-24-0024 è il numero per i nostri ascoltatori. Io partirei dalla cronaca e dal commento di quello che abbiamo visto ieri sera, coach. Eurolega, Siena che torna a Siena, asfalta il Cibona, va ai playoff con un rimpianto però, che è il fattore campo, che è il fatto di incontrare il Panathinaikos. Well, sai, hai ragione, però quando si parla di queste cose qui, cioè, prima o poi bisogna incontrare i migliori, e se loro hanno almeno la possibilità di avere tre partite con due possibilità di far colpo lì, ok? Quindi ovviamente devono tenere campo a Siena, quindi è negativo, ma allo stesso tempo non è una partita secca, tipo un Final Four, una cosa che un Final Eight, cioè, è la fase più strana, perché da sei partite per eliminare un paio di squadre, adesso tre partite addirittura per eliminare uno, saranno eliminate quattro alla fine, però molto più partite fra un avversario qui, è come playoff nel campionato italiano. Coach, psicologicamente parlando, una settimana difficilissima quella di Siena, secondo me ieri sera una pressione sulle spalle mica da ridere. Well, loro hanno sofferto molto, sia con CSKA che alla Fortitudo, senza far scuse per loro ovviamente, la Coppa Italia, che è stata tre partite in tre giorni, ma tre partite stressate, ok, alla milionesima, però la Coppa Italia è così. Ogni edizione della Coppa Italia, so che anche Marco è stato lì per la Lega 2 a Cremona, idem con patate, proprio perché le squadre sanno, se perdiamo è finito, e siamo fuori, e quindi ci mettono una cosa in più, non è come il campionato, beh, abbiamo 30 partite, vabbè, questa è la prima, no, non c'è appello, ok? Si deve fare adesso o mai, e quindi uno stress per loro, tre partite, poi l'ultimo vinto per un punto, ma ne so qualcosa io, l'ultimo Coppa Italia che ho vinto io, due punti con Pesaro, e loro con la palla in mano alla fine, cioè è così in questi eventi qua. Però dopo c'è bisogna pagare, e loro hanno pagato sia a Mosca che a Bologna. Poi ovviamente il calo fisiologico è finito, sono tornati e hanno vinto contro Cibona. Beh, però bellissima, Marco, spremuta di adrenalina. Beh, certo, per la Serie A come per la Lega 2. Ma sì, quando le partite sono tirate, sono cose che... è quello, il basket non è quando si vince di 20 punti, sono le partite decise magari all'ultimo tiro, all'ultima difesa, all'ultimo tuffo. Sì, sì. Poi sudden death, vince o muore. Ecco, comunque guarda, io credo che il basket italiano debba fare il tifo per Siena, perché non sarà facile, ma è una squadra forte, una squadra costruita per vincere, secondo me ha buone possibilità di passare il turno. Con il Pana, dici? Sì. Ma loro hanno, cioè, ha ragione Marco, cioè, io gli dico, perché Panathinaikos ha fatto recapo, è una squadra forte, allenata da Dio, da Obradovic, bisogna dire tutte queste cose, però diciamo che le probabilità sono 51 Panathinaikos, 49 Siena, ma 49 sono tanti su 100, che loro, se loro giocano la loro partita e giocano le loro carte anche senza Lavrinovic, che è una perdita importante, ok, loro hanno le loro possibilità, ovviamente in salita, però è possibile. Coach, invece tuo amico Giannakis è riuscito a sbattere fuori Milano, anche non giocando una gran partita, no, secondo me. Ma guarda, se tu fai la somma delle due partite, alla fine hanno vinto Olympiacos per un punto, sì, cioè meno due Milano più tre lì, e Milano, bisogna dire che dopo la partita disastrosa contro Tau, che hanno fatto una settimana prima, si sono combattuti lì con grande onore, tutti i giornali hanno elogiato la loro prestazione e meritatamente, perché sono venuti da un niente, da eliminare Olympiacos, e sarebbe stato un risultato, il risultato più clamoroso dell'anno nel basket europeo. Sì, non c'è dubbio. Comunque stagione non brillante, Marco, quella di Milano fino adesso, fuori dall'Eurolega con l'onore delle armi, settimo posto in classifica in campionato, una stagione così così. Per ora sì, è una stagione segnata anche da tanti cambi in corsa, da infortuni, però attenzione a Milano, perché secondo me nei playoff può diventare una squadra difficilissima da incontrare per chiunque. Ma sai perché, Marco? Squadra atipica, cioè Buchi è uno che ogni tanto decide di far giocare, non so, quattro piccoli, metto io una cosa, o quattro lunghi, cioè non hanno i ruoli classici, non c'è un playmaker classico, eccetera, però se sono in serata, per esempio, ho letto la cronaca ieri, Joby Thomas ha avuto, cioè lui ha caldo, freddo, o caldissimo o freddissimo, ma se lui è caldo, loro pensavano lui come playmaker, invece non lo è catch and shoot, cioè ricevere e tirare. Ma se lui è in serata di catch and shoot, è possibile tutto, che loro possono... Dipenderà molto per Milano a chi incontra nei playoff, perché se, diciamo che finisce come oggi, settimo loro, magari incontra la Virtus Bologna o potrebbero Roma. Incontrare Roma, hai capito? Però è aperto, poi loro possono anche cambiare. Oggi come oggi sarebbe contro Roma e sarebbe la classica fra le due città, e Roma ha dimostrato di avere dei lapsus, cioè, quindi o giocano una grande partita anche loro, o come hanno giocato lì a Malaga, meno 30, cioè, e Milano se si trova in serata può fare il colpo. Ecco, io per esempio questa Eurolega di Roma non me la spiego moltissimo, sinceramente. 9 di fila vinte in campionato, se non sbaglio, e in Eurolega invece non è riuscita praticamente a fare nulla. Bisogna, anche io ho scritto sulla Gazzetta l'altro ieri su Milano, che bisogna vedere ogni tanto il bicchiere mezzo pieno, cioè sono arrivati al top 16 in Europa, quindi come Siena, tanto per dire, la Siena va avanti, ok, e Roma e Milano escono, e questa è già una piccola impresa. Non dimentichiamo che prima di quest'anno le squadre italiane stavano uscendo subito, cioè neanche top 16, Siena andava avanti, le altre a casa, invece due sono andate top 16, forse questo è il primo passo, non lo garantisco, ma è possibile tutto qui. Quindi Roma è chiaro, poi ovviamente sapendo di essere eliminate, cioè era difficile giocare, però non so cosa pensi tu, Marco, ma Gentile come allenatore mi sembra di fare un buon lavoro, una buona presenza, lui di carisma proprio a bordo campo, e magari nei playoffs anche lui diventa forte. Ma quello che sembra vedere è che ci sia una grande fiducia dei giocatori nei suoi confronti, sì, sì. Grande rispetto e fiducia. Poi è chiaro che la squadra non l'ha costruita Nando, e quindi lui si trova a allenare una squadra che qualcun altro ha pensato per lui. Probabilmente, se potrà magari intervenire sulla squadra prossimamente, nel prossimo anno, credo, sì, che potrà fare anche meglio. Ma bisogna, questa ragione Marco, perché bisogna ascoltare l'allenatore. Io leggo ogni tanto il basket, ah, il presidente ha fatto la squadra, o nel calcio il presidente ha fatto la squadra. Aspetta qui, ma chi... Forse siete voi che mi chiamate. Siamo noi. Abbiamo bisogno secondo me è Totti, il presidente di Roma, che si è arrabbiato. Gli abbiamo appena detto di ogni. Ragazzi, quindi io aspetto il cellulare. Quindi, bisogna consultare l'allenatore. Ho avuto io il vantaggio, sia a Bologna con Purelli che a Milano con Cappellari, di avere il general manager a ascoltare i miei pareri, di chiedere i miei pareri, quindi abbiamo potuto costruire una squadra in cui eravamo veramente d'accordo, e questa è la chiave di tutto. Coach, ieri sera ho visto lo spettacolo più incredibile dell'anno, invece è stato uno spettacolo di gente. Prima con Marco Bonamico parlavamo di numeri della Lega 2 che sono alti come spettatori. Ieri sera ne ho visti 22.567 intorno al Partizan Belgrado. Hanno una tifoseria lì, e poi sia loro che Stella Rossa che le altre, cioè, fanno veramente tifo, okay? Cioè, proprio sono tutti in piedi, le mani in alto, cioè, come loro, la mia idea è affrontare la partita quasi come un concerto rock, sì, che Springsteen, sì, è lì, okay? Sì. Quindi sono entusiasti alla milionesima potenza, e questa trasmette adrenalina alla squadra. Non, io, cioè, se gioca Panathinaikos con Partizan in campo neutro, neanche in campo neutro, per me vince Panathinaikos, perché fuori. Ma giocando davanti a quel pubblico, loro si gasano. Non so cosa ne pensa Marco, ma io penso così. In Serbia e in Croazia il basket è una religione, sì. Profonda conoscenza del gioco, è grande, e poi secondo me in Serbia in questo momento è anche un fatto proprio di orgoglio nazionale, sì, sì. Dopo la disfatta che hanno avuto agli europei, dove uscì il principale quotidiano serbo con una pagina nera con scritto benvenuti nella terra del basket, questo per dirvi l'importanza che ha il basket in Serbia, beh, adesso si stanno ricostruendo e c'è grande entusiasmo. Io ho grande invidia per loro, come mi dice il mio amico Sasha Giorgio, tu devi venire al Pioniera a vedere una partita, spettacolo unico in Europa, la bomboniera d'Europa, il Pioniere. Ieri sera si giocava nel grande palazzetto di Belgrado, e credo che anche col Cesca andranno da quei 22.000, ho come l'impressione. Sicuro. Coach, prima di salutarti voglio, tra poco parleremo con Marco Bonamico, presidente di Lega 2, di Lega 2 naturalmente, perché ho un po' di cose da chiedergli. Tu come la vedresti la Lega 2 del futuro? Che consiglio puoi dare a Marco Bonamico? Qual è la tua idea? Guarda, e non voglio dar mai un consiglio a nessuno che si trovi lì. Marco dovrà, come tutti noi presidenti, come anche Dino Meneghin, che anche lui prendo io, ho avuto lui per 6 anni, Marco per almeno 6 anni, quindi giocatori che hanno imparato, stranamente tutti e due sono nati il 18 gennaio, Meneghin nel 50, Bonamico nel 57, fra le coincidenze, siamo tutti capricorni, io 9 gennaio, quindi ci sarà un legame comune lì. Però Meneghin certamente ha cominciato il suo lavoro con la federazione imparando a gradi, cioè ups, porta chiusa lì, proviamo l'altra finestra, l'altra porta, la via di uscita, la porta dietro, cioè. Marco è messo non solamente nel mondo di basket adesso, l'unico consiglio che do io, ma un mondo politico, e quindi le due cose sposate insieme, cioè, non è come gestire un'industria, cioè, secondo me anche Silvio Berlusconi ha imparato questo, gestire la Fininvest era una cosa, dava lui un ordine e veniva eseguito, qui bisogna saper lavorare di consensi, e questo è il lavoro di Meneghin e di Bonamico adesso, non sono presidenti dittatori, sono quelli che devono lavorare di consenso di tutti, e questa è la chiave del successo sia per Dino che per Marco. Ho preso appunti, coach. Ok Marco, bocca al lupo ancora, ok. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie. Ciao Marco, ciao. Grazie coach Peterson. Palla spicchi. Dunque, sempre con noi Marco Bonamico, neo presidente di Lega 2. Ci sono ascoltatori che chiedono anche delucidazioni tecnico-tattiche. Mi spiegate per favore i blocchi nel basket, visto che se ne parla spesso anche nel calcio. Sì, dovremmo fare un disegnino. Sì, la lavagnetta per radio viene difficile. Diventa difficile. C'è anche un ascoltatore che è Paolo da San Marino, lo salutiamo volentieri. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, in particolare a Bonamico. E volevo fare due domande. La prima, volevo chiedere da buon amico delle rassicurazioni sullo stato, diciamo, economico-finanziario dei nostri club, perché ho sentito che in Europa la situazione, anche, diciamo, soprattutto nel mondo dello sport e del basket in particolare, non è buona. E poi volevo chiedere a buon amico come mai mancano attualmente dei ragazzi quelle caratteristiche che aveva lui, cioè con quel fisico sui due metri, potenti fisicamente, e mi sembra di capire, mi sembra di vedere che in questo periodo manchino questo tipo di giocatori nel basket italiano. Ok, Paolo. Beh, guarda, per la prima ti posso dire che il basket e lo sport in generale, il basket, vivono nel mondo reale, quindi se c'è un problema nell'economia è chiaro che anche noi ne risentiremo. Probabilmente l'anno prossimo le squadre dovranno guardare molto attentamente i bilanci per non fare il passo più lungo della gamba. In questo momento situazioni estremamente preoccupanti per quanto riguarda la mia lega non ce ne sono. Però piano di sopra siamo alle prese col caso Rieti. Sì, annunciato peraltro. Annunciato, però insomma anche lì diciamo che potrebbero anche esserci qualche risvolto positivo. Vedremo, insomma, io credo che nei prossimi mesi sapremo cosa succederà. Può darsi che ci sia anche un intervento politico, almeno io mi auguro, perché Rieti insomma è una piazza importante per il basket. Quanto alla seconda parte? La seconda parte veniamo da lontano. No? Diciamo che i settori giovanili sono stati abbastanza trascurati negli ultimi tempi, e soprattutto quello che ci manca sono gli allenatori dei settori giovanili. Bravo. In sintesi è questo. Ma fisicamente, secondo me, qualcuno c'è anche. Il problema è riuscire ad andarli a trovare, uno. E rubargli la pallavolo. C'era Andrea Zorzi, che insomma è un altro da dribblare per quelli che amano il basket. Rubare altri sport e farli crescere dal punto di vista anche tecnico. Ma guarda, io credo che la nostra Lega sia una buona palestra per i giocatori giovani italiani. Quest'anno abbiamo Martinoni, ad esempio, che sta facendo molto bene a Varese ed non era neanche nella nazionale di categoria nelle ultime convocazioni. Quindi io credo che se poi hanno spazio e sono nella situazione tecnica giusta per crescere, i giocatori italiani possono farlo. C'è un ascoltatore, Fabrizio, che scrive: a Biella ce ne bastano 4.500, facciamo festa. Naturalmente è riferito agli spettatori e nel raffronto con i 22.000 erotti di Belgrado. Beh, intanto complimenti a Biella per il nuovo impianto. Nuovo impianto. Bellissimo, un grande sforzo, e per una società che comunque è sempre programmato bene. Senti Marco, giù la maschera, come la Lega 2 che vorresti? La Lega 2 che vorrei? Il campionato che vorrei è quello che abbiamo adesso, tirato con partite sempre molto... Che si decidono in volata. Quello che vorrei è vorrei un po' più di rispetto per questa Lega, perché è una Lega, secondo me, che ha numeri importanti, dove ci sono imprenditori che investono e dove c'è spazio per i giocatori italiani. Quindi se si vuole cambiare nel basket, bisogna cambiare in meglio. Certo. Quindi se c'è un progetto, perché no? Ascoltiamolo, ma deve essere migliorativo, e io credo che oggi noi abbiamo già una Lega che funziona molto bene e che è da spettacolo. Sì. E volevo chiederti invece cosa chiedi alle tue società, in cosa chiedi di migliorare le tue società? Ma guarda, io mi sono trovato una Lega estremamente compatta, questo mi ha fatto molto piacere. Siamo consci probabilmente che dobbiamo lavorare, che dobbiamo stare insieme per avere successo, e questo è un grande collante. Alle mie società credo di continuare così, di avere anche un occhio per i giovani, sempre di più, perché abbiamo bisogno di ricambio nel basket, perché questa Lega deve preparare le società, ma deve preparare anche i giocatori italiani per la nazionale, perché in Serie A giocano poco, da noi giocano e da noi devono imparare a essere decisivi, a prendere i tiri decisivi. C'è subito un problema che sta emergendo nei rapporti, ovviamente, con il piano di sopra. Io la prendo alla larga, nostalgia dei tempi, un po' di nostalgia dei tempi in cui, partendo dalla A2 potevi anche sognare lo scudetto, perché le prime due del campionato andavano a giocarsi i playoff. C'erano anche squadre che davano fastidio, anche alla Milano di Peterson, mi ricordo Brescia, mi ricordo tante squadre che partivano da lì e avevano grandi ambizioni subito. Un po' di nostalgia di quei tempi, soprattutto non vorrei che in futuro ci potessero essere delle riduzioni nei passaggi tra i due campionati, promozioni e retrocessioni. Quello è un punto imprescindibile, cioè va bene così e non meno di così. Guarda, io ti ringrazio dell'affermazione più che della domanda, con cui ovviamente sono d'accordissimo, perché insomma, intanto secondo me nello sport ci vogliono delle formule semplici da capire. Mm-mm. Quindi, e ci vuole ricambio, perché il sangue nuovo fa bene. E allora portare due squadre dalla Lega 2 in Serie A porta sangue nuovo. Tra l'altro le neopromosse hanno sempre fatto ragionevolmente bene. Vediamo, non so, Montegranaro, che qualche anno fa era in Lega 2, Teramo. Teramo, che stanno facendo degli ottimi campionati, e stanno, Teramo soprattutto sta anche presentando giocatori italiani di ottimo livello. Quindi i campionati devono comunicare, devono essere aperti. Non credo faccia bene a nessuno, esatto, cristallizzarsi sulle proprie posizioni, o comunque, come è stato ventilato, magari mettere una sola retrocessione, una sola promozione. Siamo in Italia, quindi c'è bisogno di battaglie per la promozione, di battaglie per la retrocessione. Se cristallizzi un campionato e gli togli il sale dell'agonismo, lo svilisci in maniera assoluta. Guarda, posso farti l'esempio: noi questo weekend abbiamo due partite che andranno in televisione. Abbiamo due partite. Una è Imola-Roseto per la retrocessione, più o meno, e l'altra è Venezia-Pistoia. Venezia-Pistoia non si trova un biglietto. Se tu vai a Venezia e vuoi entrare, non ce la fai, perché non c'è un biglietto. Vanno anche da Pistoia a vedere questa partita, perché noi vogliamo in Italia vedere delle partite emozionanti dove c'è qualcosa in palio. Certo. È così, siamo in Italia, non siamo nell'NBA. Sento parlare di questa storia del ranking, che non capisco bene cosa sia. Il ranking è un modo per proteggere, tra virgolette, alcune società che, se retrocesse, potrebbero ricomprarsi il titolo, in pratica. E questo, secondo me, è contrario a una logica sportiva, è più vicino forse a una logica manageriale. Però rendiamoci conto che se si può stare in un campionato, bisogna dimostrarlo sul campo. Io credo che dobbiamo rispetto a chi viene a vedere le nostre partite, ai tifosi che si immedesimano nelle squadre e che devono avere i loro sogni. Non possiamo privare la gente dei sogni. C'è un messaggio così, tanto abbiamo tirato giù la maschera. Presidente, sì. Bonamico, ma è vero che vogliono toglierla questa Lega 2? Scrive Marco da Iesi. Quante possibilità ha di sopravvivere? Allora, caro amico iesino, io mi auguro che, e sono certo che ne abbiamo tante, che potremo anche fare meglio e che ci rivedremo anche l'anno prossimo e gli anni a venire, e comunque non saremo degli ossi teneri, questo sicuramente. No, poi si deve lavorare in sinergia tra, secondo me, tra le due leghe professionistiche. Io penso che questo sia molto vero, penso che il settore professionistico ha una sua logica se lavora con frequenti scambi. E questa dovrebbe essere quello che vedremo in futuro. Giovanni da Modena, un altro ascoltatore. Giovanni, buongiorno. Salve, buongiorno Giovanni da Modena. Mi fa molto piacere sentire Bonamico parlare alla radio, perché si dimostra una persona piena di contenuti e anche molto intelligente, quindi sono molto positivo per il suo nuovo ruolo. Tra l'altro lui ha toccato il discorso dello spettacolo domenica sera, abbiamo visto in televisione, che sono poi tifoso Fortitudo, uno spettacolo fantastico a livello di emozioni, di tutto, tecnico, niente a che fare col calcio, ragazzi, cioè domenica sera è stato fantastico. Abbiamo visto un grande giocatore italiano, Mancinelli, e qui torniamo sul discorso degli italiani, cioè gli italiani ci sono, ma fino a quando costa pochissimo comprare dei giocatori americani e fare delle squadre di americani, gli italiani comunque non hanno spazio. Io ho già chiamato su questa tesi qua. Io sostengo che un posto in più per un giocatore italiano comunque lo devi dare, perché cioè non c'è interesse a lavorare sul settore giovanile quando comunque con poco ti fai delle squadre Giovanni, di americani. Però basta far costare di meno che gli italiani. Esatto, glielo devi dare, ma lui se lo deve guadagnare, e deve essere conveniente per una società prenderlo. Quindi deve valere la legge di mercato, secondo me. Marco, che ne pensi? Ma io credo che bisogna mettersi in discussione queste cose. Bravo. Credo che potrebbe anche essere ben visto il fatto che alcuni giocatori italiani limitino un pochino le proprie pretese, anche perché, giusto per non far nomi, voglio parlare di un giocatore che stimo moltissimo, che è Bulleri. Bulleri è andato a Milano, o venuto a Milano, perché oggi siamo qui, con un contratto altissimo. Questo forse lo ha reso anche... forse era nervoso, era troppo, pensava troppo a questo contratto, non è riuscito a dare quello che lui può dare come giocatore, è tanto, perché lo stiamo vedendo adesso alla Benetton, è ritornato il Bullo che conosciamo, deciso, intraprendente, con la testa libera. Allora, secondo me, sì, il denaro è importante, i contratti sono importanti, però è anche importante andare nella situazione giusta dove si gioca. Posso fare un altro esempio? Cerella quest'anno, giocatore che è arrivato nell'ambito della nazionale, ha fatto la scelta di andare a Teramo, società fantastica. Due salti di categoria ha fatto. Due salti di categoria, cosa è riuscita solo a Poeta, che è un super, ma Cerella non gioca. Fosse venuto in Lega 2 avrebbe continuato la sua evoluzione come giocatore, probabilmente dopo un paio d'anni sarebbe stato pronto per altri palcoscenici. Palla spicchi. Torniamo. Altri ascoltatori in linea 800 24 00 24, il numero verde, ma soprattutto Marco Buonamico qui da noi. Ascoltatori che scrivono e vogliono parlare di nazionale, cosa che tra poco faremo anche alla luce di quello che stanno combinando i nostri tre ragazzi al di là dell'oceano, sui giornali di oggi, su tutti i giornali di oggi, quanto ha fatto Danilo Gallinari l'altra notte con i Knicks. Guglielmo dalla provincia di Prato e Ernesto da Caserta sono i prossimi due, ma c'è un messaggio che voglio leggere, che è questo di Matteo da Verona. Verona, la Scaligera Basket fa quasi 2000 persone, siamo in B2 come nel calcio, pubblico da vertice, ma nessun aiuto dal sistema. Mai siamo stati la prima squadra a vincere la Coppa Italia dalla A2, battendo Bologna e Milano, scrive Matteo da Verona, a testimonianza del fatto che il basket, la gente ha voglia di pallacanestro. Sì, e poi a Verona credo che si stia muovendo qualche cosa. Trieste. Trieste è un peccato che ci portiamo dietro, perché è una città che vive di basket. I triestini giocano, abbiamo Pozzecco che anche se è nato a Gorizia, però triestino tutta la vita. Hanno esportato giocatori in tutta Italia. Purtroppo a Trieste c'è un palazzo bellissimo, ma il basket langue. Guglielmo, provincia di Prato, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, volevo farvi una domanda, diciamo, proprio sulla pallacanestro giocata. Io quasi ho 48 anni e ho giocato a pallacanestro, diciamo, dalla metà degli anni 70 fino alla metà degli anni 80, amatoriale. E vedo che oggi nella pallacanestro ci sono pochi fondamentali, o è una mia impressione. Per esempio, i passaggi schiacciati per terra, i tiri al tabellone. Arresto e tiro, sì. Caduto semplici, però vedo che quelli che lo sanno fare, per esempio Tim Duncan è uno che usa spesso il tabellone a tiro, Jason Kidd, Nash, Paul. Ma vede Guglielmo, come diceva prima Marco Buonamico, bisogna insegnarglielo, no? Ma sai, se hai sentito qualcuna delle mie telecronache avrai sentito che ho messo spesso l'accento su questo. Adesso si pensa più a saltare, ovviamente a fare pesi, ma di tecnica si parla poco. Si parla poco perché mancano gli allenatori, di grandi allenatori dei settori giovanili, e soprattutto manca la volontà di crearli. Beh, anche perché a quei tempi, se torniamo ai tempi lì, chi allenava il settore giovanile dell'Olimpia Milano faceva l'allenatore del settore giovanile. Posso dirti Milano. Che anche un certo Messina, che forse conosciamo, allenava il settore giovanile della Virtus Bologna, se può bastare. E facevano gli allenatori di settore giovanile, sì. Adesso penso che non ci sia più questa figura a livello professionistico. Forse c'è Giordano Consolini a Bologna. Ti posso dire che in molte società c'è, e probabilmente presto verrà reinserita questa figura. Secondo me sarebbe un passo importante per il basket. Ernesto Caserta, buongiorno. Buongiorno. Senta, innanzitutto faccio i complimenti. Peccato che questo programma dura troppo poco. Chiederemo più spazio, giocheremo al raddoppio. Magari invece di una volta alla settimana, due volte, perché giustamente sì. È una mia proposta. Poi volevo chiedere una cosa, se voi lo sapete, mi ha fatto la competenza di Carlo Gente, che lo ascolto tutti i sabati e tutte le domeniche. Se sapete, io chiamo da Casetta, premetto, sì. Sono tifoso della Juve Casetta, ma ci manca terribilmente il derby con Napoli. Sapete qualcosa sul ripescaggio di Napoli, se Napoli ripartirà dai dilettanti? Non lo so, ma Napoli, insomma, Napoli è un tasto dolente, Marco. Guarda, c'è Roberto Di Lorenzo che sta facendo un grande lavoro a livello giovanile, sta coagulando molte società della zona napoletana, però diciamo speranze reali in questo momento non ce ne sono. Poi vedremo. Parliamo un po' di nazionale, Marco. La nazionale, dunque, io ho un pensiero. Adesso parliamo di riforma, ristrutturazione dei campionati, riforma del basket. Non vorrei vedere utilizzata la nazionale come arma di ricatto in qualche maniera. Difficoltà della nazionale, naturalmente. No, questo no, anche se le ultime dichiarazioni del nostro allenatore Carlo Recalcati dicono che per i mondiali che forse saranno in Italia avremo una chance per fare molto bene, quindi vuol dire che almeno a livello top abbiamo giocatori, ed è vero, perché insomma i tre americani stanno facendo bene, ma non solo loro. Certo, poi le fortune della nazione in questo momento sono legate ai viaggi dagli Stati Uniti, perché è chiaro che se questi tre arrivano è un conto, se questi tre non vengono è un'altra storia. Questo è vero, però io non condivido l'atteggiamento che hanno avuto in molti, compresa molta stampa, lo dico chiaramente, nei confronti della nazionale che non si è qualificata per gli europei, che adesso avranno un'altra chance per farlo, perché i ragazzi che sono andati hanno dato tutto, sì, in una situazione non facile ci hanno messo la faccia, quindi secondo me meritano molto rispetto. Il problema non è chi ci è andato, il problema sono, a parte gli americani, chi non ci è andato perché doveva mettersi a posto, chi doveva andare in vacanza, perché anche qui un po' di malcostume, se vogliamo, c'è ancora a questo livello. Sì, però io ho una mia idea, che è questa. Secondo me gli obblighi non funzionano, come non funzionano gli obblighi di far giocare 3 under 23 o 3 under 22. Bisogna che le società abbiano l'interesse a farlo, che siano stimolate a farlo. Così, secondo me, non funzionano gli obblighi per andare in nazionale. Bisogna creare un circuito virtuoso perché i giocatori siano felici di andare in nazionale e ci vadano con gioia, come succede a giocatori stramiliardari del calcio, che non si sognerebbero mai di non rispondere a una convocazione. Beh, ma neanche tu ti saresti mai sognato. No, e questo è vero, però i tempi cambiano e non è che si può sempre pensare che ieri era meglio di oggi. Io dico che la nazionale deve giocare in grandi piazze o in piazze con grande entusiasmo. Io non voglio più vedere, non le commenterò più, ma andrò a vederle, non voglio più vedere partite della nazionale con 100 persone a vederle, perché questo è, secondo me, squalificante per i giocatori, per la federazione e per tutto il nostro movimento. Benissimo. Noi abbiamo bisogno di andare nelle piazze, di stimolare le piazze, come è successo a Cagliari, ad esempio, dove c'era un pubblico fantastico, dove succede, è lì che dobbiamo portare la nazionale, perché la nazionale ha bisogno di questo, di sentire l'amore del pubblico. E i giocatori ne hanno bisogno. Se sentiranno questa partecipazione, questo amore, io credo che tutti andranno in nazionale. Sai, in Spagna è successo questo. È successo questo nel senso che anche lì ci sono giocatori che giocano l'NBA, multimiliardari, eccetera, eccetera. Però c'è uno come Garbajosa che, pur di andare a giocare con la nazionale, insomma, si è giocato la carriera, possiamo dirlo. Si è giocato la carriera. Quel gruppo vive su questi sentimenti. Ci piacerebbe vedere anche qui. C'è un altro ascoltatore che è da Marco da Lodi. Buongiorno. No, Marco, non riusciamo. Proviamo a ricollegarci perché così è difficile. Bargnani, Belinelli e Gallinari stanno facendo grandissime cose, Marco. In chiave, sempre in chiave nazionale. Sì, ne abbiamo bisogno perché il 5 agosto giocheremo contro la Francia, sarà la partita chiave, sarà la prima partita della nostra qualificazione, ci giocheremo tanto, ci giocheremo forse tutto in quella partita, quindi è una all in, come va di moda a dire adesso. Senti, con Meneghin parli spesso in questo periodo? Ma guarda, spessissimo no, perché ha tantissimo da fare, però ci sentiamo e ha tutto il mio appoggio per un lavoro non facile. E io spero di avere il suo per il mio. Che invece i rapporti con la categoria superiore come sono? Ma sai, con Valentino Renzi ci conosciamo da tanti anni, lui ha lasciato da poco l'incarico di presidente della Lega 2, i rapporti sono buoni, io spero che siano di grande collaborazione come con tutte le altre leghe. È chiaro che il settore professionistico, secondo me, andando avanti, proprio per il momento anche economico che andremo a affrontare, dovrà confrontarsi e dovrà cercare di lavorare con più coesione. Questa almeno è la mia idea. Dobbiamo ricollegarci con Lodi, con Marco. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Meglio adesso? Sì, sì, adesso meglio. Dunque, tifoso dell'Olimpia dalla Billy 3-1 di San Pietro. C'ero anch'io, se ti ricordi. C'era anche lui. Una domanda semplice, ho visto la partita contro il Tau, vabbè, posso dire imbarazzante per Milano, però per gli amanti del basket si è visto una grande squadra che era l'altra. Sì. Una domanda semplice, non vorrei capire i due nuovi acquisti di Milano, che io sinceramente non ho capito il perché di questi acquisti. Ecco, tutto. Lei si riferisce ai due americani? A Price, sì, esatto. Hollis Price e Mo Taylor. Beh, insomma, nel momento in cui è stato... Si è deciso di non far più giocare Bulleri, e anche qui possiamo aprire un capitolo, perché l'ho detto molte volte, sono molto contento che Bulleri sia tornato a Treviso, sia tolto la scimmia dalla spalla, sia tornato un giocatore, eccetera, eccetera, però non mi è piaciuta la gestione di Bulleri, che comunque è stato un giocatore importante anche nella storia della pallacanestro italiana da parte di Milano. Si è cambiata rotta, si è preso Alex Price, che non è un playmaker, è un buon tiratore, è un giocatore di buon talento, però non mi sembra così decisivo. Quanto a Mo Taylor, boh, vediamo, appena arrivato, non giocava da un sacco di tempo. Questo è vero, però sai, nelle scelte societarie ci sono cose che probabilmente sanno solo loro nello spogliatoio e nell'ufficio. Devo dire che ho avuto le tue stesse perplessità, ma soprattutto lo stesso sentimento di vicinanza con Bullo, perché vedevo che attraversava un periodo lungo e difficile, segnato da infortuni, segnato dove tutti pensavano che lui dovesse sempre fare qualche cosa in più per dimostrare qualche cosa, che insomma secondo me nella sua carriera ha dimostrato ampiamente. Lui si è comportato bene, è stato lì, stava in panchina seduto, anche troppo zitto secondo me per il giocatore che è stato. Ma sai, a volte piacciono molto i soldatini, no? Questo è. Però non credo che sia questo il caso, perché Bucchi è un ottimo allenatore, io l'ho visto lavorare anche in situazioni molto difficili, sempre con grande rispetto dei giocatori e della società, quindi è anche ottime capacità. La scelta probabilmente lì è caduta su puntare su un altro giocatore appena arrivato, su creare spazi per Vitali, perché non è che dobbiamo nasconderci, e questa è una scelta che può essere condivisibile o no, però insomma la società l'ha fatta e starà con questo. Vitali a me piace molto, da capire che tipo di giocatore è, perché non è ancora un playmaker, cosa che lui vuol diventare, è una buona guardia, secondo me ha bisogno comunque di un playmaker vero vicino. Guarda, è un giocatore che intanto ha un grandissimo talento, e il talento nello sport va rispettato. Passa molto bene la palla, può essere decisivo a quella, come dice, la chiamavi tu, faccia di tolla per mettere i tiri importanti o comunque prendersi quelle responsabilità. Bisognerà avere un po' di pazienza, però sicuramente il talento c'è. Palla spicchi. Ecco che torniamo per il gran finale con Marco Bonamico. Tra l'altro voglio tornare a parlare di Siena, anche perché abbiamo un'intervista realizzata da Flavio Suardi stamattina con Simone Pianigiani che va alle Final Four. Però prima volevo chiudere il discorso istituzionale con Marco Bonamico. Tornando a Meneghin, hai detto che lo senti, è impegnatissimo nel suo lavoro. Ecco, io mi auguro che una delle rivoluzioni di Dino possa essere quella del sistema elettorale, Marco, che a me non piace. Così fondato sul grande potere dei comitati regionali. Cioè, io ho sempre detto che questo è uno dei punti su cui Dino deve lavorare. Un po' il sistema dei soviet, quello che c'è in Italia. Beh, adesso forse siamo un po' troppo in là, però è chiaro che le società professionistiche e dilettantistiche sono poco rappresentate nel Consiglio federale. Questo è vero, questo è il governo della pallacanestro. Io credo che ci vorrebbe un po' più di equità, certo, nella distribuzione dei seggi. Poi sono convinto della buona volontà di tutti. Questo è un nuovo consiglio, bisognerà aspettare, a valutare. Io mi auguro che questo nuovo consiglio federale segni un cambiamento nel modo di affrontare il nostro sport, magari con un po' meno politica e un po' più di occhio, esatto, reale su quello di cui il basket ha bisogno. Ecco, questa è la mia curiosità. Difficoltà tue anche, chiaramente le starai iniziando ad affrontare, da uomo di campo a rapportarti con la dimensione politica di un ruolo. Ma sai, io qualche anno fa sono stato per più di 4 anni presidente della sezione giocatori, quindi ero in Consiglio federale, diciamo che di questo ho un po' di esperienza, però un giorno ho dichiarato che non sarei mai più andato in Consiglio federale, perché dopo averne fatto 7 anni pensavo che fosse abbastanza. Adesso è una nuova sfida. Come ti dicevo, dobbiamo cambiare il modo di fare politica sportiva, dobbiamo essere più diretti e soprattutto essere trasparenti e farci capire, perché la gente che ama il nostro sport e quella che non lo sa ma lo potrà amare in futuro sono quelli a cui noi dobbiamo guardare con responsabilità e con trasparenza. Questo è il messaggio. Io credo che Dino sia molto importante per questo. Meneghin ha fatto una scelta importante, una scelta dettata dal voler fare qualcosa di buono per la pallacanestro, e credo che dovremo sostenerlo in questo. E speriamo che, come dice lui, non sia soltanto un quadro da attaccare alla parete, perché altrimenti sarebbe una grave sconfitta. Ecco, questo l'ha detto lui, che non vuole essere un quadro da attaccare alla parete. Anche perché vorrei vedere il chiodo. Esatto. Stavo leggendo, no, nel frattempo stavo leggendo messaggi, ma ragazzi, la nazionale di basket non la guarda nessuno perché a pochi interessa il basket. Beh, io vorrei solo ricordare a questo signore che abbiamo fatto alla finale delle Olimpiadi ad Atene oltre 7 milioni e quando gioca la nazionale si parla sempre di un paio di milioni di italiani che rimangono incollati davanti al teleschermo. Quindi la nazionale rimane oggi il vero unico veicolo promozionale del nostro basket. Che poi c'è anche la questione che citavi del teleschermo, e questo è un altro tasto delicato su cui tu dovrai lavorare, su cui Meneghin dovrà lavorare, perché insomma il basket io credo che debba prima o poi ricomparire sul basket di vertice, debba ricomparire sui teleschermi nazionali. Ma credo anch'io che sarebbe un grande spot, senza nulla togliere, tanto per non far nomi, come al solito, come nel mio stile, a Sky, che sta facendo un grande lavoro, un grandissimo lavoro, sono grandissimi professionisti, però noi abbiamo il dovere di raggiungere tutti con la pallacanestro. Se pensiamo che il nostro sport sia già arrivato e che lo conoscano tutti, non è vero, non è neanche vero quello che diceva l'ascoltatore precedente, che non ci conosce nessuno, questo per fortuna no, ma abbiamo il dovere di renderci aperti. La Lega 2 lo sta facendo, noi vogliamo che il nostro sport sia visto da quanta più gente possibile. Torniamo a Siena per chiudere il discorso, da lì siamo partiti. Le monarchie assolute sono sempre un sintomo, di un problema sportivo, no? per un campionato, perché tolgono il sale dell'incertezza a un campionato. Ma sai, è anche imbarazzante che quasi tutta l'Italia esultasse perché Siena aveva perso a Bologna, piuttosto che il fatto che la Fortitudo si fosse tirata fuori da un momento di grande crisi e avesse battuto una squadra che fino allora non aveva perso una partita in campionato. Insomma, è un po'... sì, ritengo che i campionati sarebbe meglio se fossero combattuti, però purtroppo, o per fortuna per Siena, non sembra questo il caso degli ultimi anni. Pianeggiani come Mourinho? No, molto più simpatico, anche perché io sono sandoriano, comunque mi sono tolto una lieve soddisfazione con un bel 3-0. Una leggera soddisfazione. Da Bologna chiama Luca, buongiorno. Buongiorno, avevo due domande veloci per buon amico. Prego. La prima è, visto che ha giocato qualche partita nella Virtus, cosa ne pensava della finale con Siena? Il qualche era un eufemismo. Certo. Perché mi sembra che nell'ultimo minuto e mezzo la freccia di Davide è andata solo in una direzione. Poi che non siamo riusciti a fare canestro è vero anche quello, però se non sbaglio un arbitro deve fischiare quello che c'è, per l'uno o per l'altra squadra. E la seconda è, mi auguro di no da appassionato di basket, ma se dovesse fallire le calcati, chi vedrebbe la guida della nazionale? Allora, la prima, intanto ti ricordo che gli arbitri hanno un compito difficilissimo, non è assolutamente facile, però i commenti di Pozzecco sull'ultimo minuto di gioco mi trovano completamente allineato, posso dirti. Quindi bisogna avere coraggio. E poi per il resto, sai, io mi auguro che Carlo Recalcati faccia molto bene, perché il basket ne ha bisogno. Non vedo in questo momento, per vari motivi, dei successori pronti, perché se è vero che Messina andrà a allenare nell'NBA, Scariolo ha preso quella che è la panchina della nazionale più prestigiosa in questo momento, che è la Spagna, del nostro continente. Ci sono dei giovani che stanno venendo su molto bene come allenatori, ci vorrà un po' di pazienza. Faccio un nome, dico De Raffaele, perché sta lavorando molto bene, sta lavorando anche con le nazionali giovanili, ma ce ne sono tanti altri. Che sai che siamo di Pavia. Esatto, no, è ovvio. È un politico. È vero, sì, ha anche parlato bene degli arbitri, quindi abbiamo dato tutto oggi. No, tu vorrei tornare a Mourinho Pianigiani per sentire che cosa ha detto questa mattina su Siena, sulla partita vinta ieri, sul futuro. Sentiamo. Tutti sanno la realtà delle cose, cioè quanto in Europa, con investimenti ancora più massicci quest'estate, ci siano almeno 10 squadre che partivano con presupposti più importanti dei nostri per arrivare alle Final Four. E essere già nelle prime 8 è sicuramente un risultato straordinario, ripeto, tanto più che è avvenuto anche quest'anno in una stagione dove abbiamo già avuto due fratture, e non dico infortuni di poco conto, ma fratture ai due giocatori chiave che sono anche i nostri migliori realizzatori, cioè siamo stati un mese e mezzo senza Kaukenas, adesso dovremo giocarci playoff senza Lavrinovic, e dobbiamo pensare la realtà è un'altra, e cioè che tutta Europa adesso non ci dà un euro nell'andare alle Final Four, sovvertendo con un'assenza chiave come quella di Lavrinovic un pronostico e il fattore campo a favore del Panathinaikos. Io un euro ce lo metto per Siena. Ma io le metterei anche di più. Siena allenata bene, poi non fidatevi di Pianisani perché è senese, quindi questa sembra un prepalio, ecco, il suo. Si nasconde un po'. No, anche perché onestamente Siena, che pure monarca assoluta del nostro campionato, vogliamo vedere in Italia qualcuna che attacca il potere di Siena, ma da grande squadra qual è, insomma, la corona d'Europa, per ricordarla nel libro del basket come squadra evento, insomma, ci sta. A Siena manca un grande successo europeo. Avesse un successo europeo, potrebbe essere paragonata, secondo me, alle grandi dinastie, parliamo di Milano, Bologna, Varese, Cantù, eccetera. Questo ascoltatore scrive: bisogna avere il coraggio di dire che la media del basket italiano è bassa. Media in che senso? Media, credo, il livello del basket italiano. Non sono d'accordo sul fatto che sia bassa. Forse si può fare meglio. Diciamo che il grande turnover che c'è stato nelle squadre, soprattutto di Serie A, a volte ha limitato la costruzione del gioco. Non so se sono stato troppo criptico, però un conto è vedere giocare il pick and roll di Siena, per dire, che lo gioca con 5 giocatori e lo gioca in maniera fantastica, e un conto è vedere magari uno che chiama il lungo per fargli un blocco e dice e adesso ce la giochiamo io e te, è diverso. E anche perché se metti la porta girevole davanti alla sede, esatto, della società, insomma, americani che entrano che escono, la squadra non la costruisci più. Marco, per chiudere abbiamo 30 secondi, il fine di stagione di Lega 2, come lo vedi? Cosa pronostici? Varese sicuramente in vantaggio, ma il campionato è ancora da giocare. Ci sarà una partita chiave, che sarà quando Casale Monferrato andrà a giocare a Varese, e quella sarà da brividi. E poi una lotta per la retrocessione apertissima, lotta per i playoff ancora aperta. Insomma, se volete non dormire la notte perché il cuore vi batte, guardate la Lega 2. Marco, grazie, torna a trovarci se non sei troppo impegnato come presidente. Per voi sempre. Prenderemo accordi con i tuoi segretari. Grazie a Marco Buonamico, Flavio Suardi qui vicino a me, Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggio in regia. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 17. Buona giornata a tutti.